Ciao, siamo gli omofobici. Anche noi ascoltiamo Do It Yourself Invention. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Minuti primi, benvenuti in una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale. Quarta puntata di Do It Yourself Invasion, sfidando la viabilità romana. Right 0649 1750, il numero di telefono, quindi fatevi sentire. Ricordiamo che particolarmente la radio non se la passa bene, quindi dateci una mano. Sottoscrivete, partecipate a questo progetto, a mantenerlo in vita. Quindi supportate la libera informazione, la musica libera. Potete farlo attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185, Roma San Lollo. Oppure attraverso il nostro sito, quindi www.ondarossa.info, andando a cliccare su Sostieni. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email di questa trasmissione, diyinvasion@autoproduzioni.net, nonché l'email del sottoscritto, fantasma@ondarossa.info. Quindi l'invito ad ogni trasmissione, quello che facciamo qui, insomma, di partecipare a questa trasmissione. Fatevi sentire, fanzinari, organizzatori di iniziative, insomma tutto quello che gira intorno all'autoproduzione musicale. Noi ne abbiamo una gran voglia di parlarne, di farvi conoscere e di conoscervi. E come siamo andati a conoscere sabato scorso sui monti di Carpineto Romano, un festival organizzato appunto nel mezzo di una foresta, che è stato il Macera Fest. Quindi rinnoviamo l'abbraccio a chi ha organizzato, che sono i Pischelli dei Mefitica. Mi, e abbiamo avuto il piacere, insomma, di registrare delle corrispondenze e noi le mandiamo subito in onda. Volume 2, qui a... dove ci troviamo? Carpineto Romano. Carpineto Romano. In mezzo ai monti, stiamo sempre a 600... Monti Tapini, sì, qui non lo so, saranno 800 metri, 900, non lo so. E insomma, il settore culinario e bevereccio è curato da voi, certo. È collaudato. È collaudato? No. Certo, vabbè, tra l'altro anche cose particolarmente buone, se posso dirlo, tra cui focaccine, vabbè, ce lo direi un po' a te, insomma. Chi siete? Un'associazione praticamente è nata contro la vendita delle terre demaniali da parte dello Stato ai privati, quindi è nata proprio per... noi abbiamo preso inizialmente un oliveto abbastanza messo male, abbandonato da 50 anni, di circa 13 ettari di oliveto, e siamo partiti da lì come esempio di uso delle terre dello Stato da parte della gente comune. Cioè proprio per sottrarle alla speculazione? Per sottrarle alla speculazione, ai privati, quello che insomma, che magari i terreni agricoli rischiano di diventare anche edificabili. Quindi, oltre a quello, poi lo sfruttamento, l'uso magari anche coltivato, ma coltivato con pesticidi e cose varie. Monoculture, quindi, sì, cose insomma, varie. E dove siete dislocati voi? Noi siamo a Montelanico. Montelanico, perché è qua vicino? Qui vicino, 7 km prima di... Mentre il nome dell'associazione? Terra Madre, sì. Che ecco, è nata in questa circostanza, proprio circa 3-4 anni fa, proprio che lo Stato e il governo parlava della legge, delle vendite, come adesso succede, che tipo recentemente l'isola di Procida, c'è un ex carcere che è bellissimo su questa isola, è stato venduto a un privato, mentre potrebbe essere usato in tantissimi modi dai comuni cittadini che vivono l'intorno. Dalla socialità. Anche perché, invece, sì, per un fatto sociale, per un fatto di settere che promettono, autoconsumo. Noi, la nostra associazione è basata sulla produzione, l'autoproduzione e l'autoconsumo. Gli accessi li diamo a conoscenti a prezzi solidali e partecipiamo a queste iniziative, insomma, che... Insomma, quindi c'avete questo oliveto e poi abbiamo un altro... Produciamo olio, immagino. Produciamo olio, che insomma non tanto, perché le condizioni dell'oliveto, non so, lo recuperiamo per il momento. Okay. Facciamo olio, ma soprattutto recupero la cosa. E poi abbiamo un altro terreno che è sempre dello Stato, che... No, facciamo l'orto. Un tema, insomma... Orto. Poi, oltre alle terre dei maniaci, abbiamo terre nostre, perché noi siamo del posto, i genitori, anche io certo, insomma, ho lavorato tantissimi anni con mio padre, ci ho avuto la vigna, ci ho un paio di ettari di castagneto, di maroneto, che purtroppo sono colpiti da sto cinivide, che è un insetto che la globalizzazione sì, ci ha portato, certo, perché certo, secondo me è così. E quindi ce lo ritroviamo e subiamo che danni. Quindi questo, no, parliamone un attimo, cioè questo bene, territorio, so, di Castagneti? Sì, Castagneti. Cioè, quella è la produzione. Sì, la castagnocultura qui è la più diffusa. Ed è stata colpita da... magari Carpineto Romano dalla pastorizia, Montelanico castagnocultura e ortaggi, frutta, insomma, c'è territori di grano. È vario, dalla montagna alla collina, quindi insomma. Quindi andate a recuperare. Abbastanza fertile, quindi. Andate a recuperare le coltivazioni, sì, locali. Recuperiamo, ma soprattutto cerchiamo di dare un esempio a chiunque volesse venire a suo paese a prendersi, a lavorare le terre con noi, e dimostrare che è possibile vivere diversamente, perché ci avevano ricchezze, ma non solo qui, dappertutto. La terra è nostra. L'importante è che non ci impongono la loro, il loro modo di, vivere e di consumare, perché soprattutto qui siamo abituati a consumare male, a comprare. Bisogna produrre, restringere il chilometro zero, è l'occasione unica. E quindi dobbiamo andare verso il metro zero. Il metro zero, la nostra cosa la principale è quella proprio di poter dare una dimostrazione che è possibile e cercare di stimolare i contadini, i singoli contadini che tanti stanno a rifarsi l'orto, a ripiantarsi di tutto. Quindi tutto perché, quello che insomma... Perché la crisi, la fame, perché chiamiamola fame, però... Le belle abitudini che i cittadini hanno, che non servono a niente, che sono tutti sprechi, perché avesse 2-3 telefonini all'anno da cambiare. Sì, sì. I soldi spesi inutilmente se stanno a riduce da parte di tutti, quindi insomma di tutti quelli che purtroppo soffrono quello che. Della maggior parte. Quello che stanno a soffrire tutti, insomma, non è che se la passiamo male. Bene, quindi questa associazione è lo stimolo, sì, perché noi interessi economici e cose varie, noi partecipiamo a tutti gli eventi dove non c'è lucro, pubblicità, soprattutto non facciamo pubblicità a nessuno, non andiamo in giro a chiedere soldi ai negozianti, commercianti per avere lo sponsor. È l'unica festa senza che vai gli sponsor si sprecano, dove magari si professano pure chissà che, certi, e se sprecano i sponsor. Rimaniamo sempre sulle nostre poche forze. Sull'autoproduzione. L'autoproduzione e l'autoconsumo. Gli accessi li diamo a chi ci sta vicino. Come a chi vi vuole sostenere, insomma. Certo, a chi ci sostiene, giustamente. Insomma, non investiamo magari in trattori, in cose varie, ci facciamo i cavalli. Ci abbiamo 4 bei cavalli, insomma. Ma gli volete bene? Guarda, si ammazziamo per loro, più di un figlio. Poi okay. Ecco, quindi e noi abbiamo zappato l'orto per 2-3 anni sempre con le zappe, senza grandi mezzi, senza attrezzi, senza tutto a mano. Le zappe, come va la schiena? La schiena va sempre bene, perché se, quando la tieni in esercizio magari... In esercizio io farei fare un sacco di esercizio a tanti, perché ce n'è tanto da fare, capito? La conclusione sarebbe proprio questa, che contattare non fa male. Se c'è qualcuno, poi noi siamo talmente solidari che siamo capaci pure di ospitare qualcuno. Cioè, dove ci abbiamo l'orto, più di qualcuno c'è l'orme d'estate che ci viene a trovare, lavora, insomma... Allora, magari lo ripetiamo più tardi. C'è da approfondire magari, insomma, la cosa, perché le chiacchiere sono chiacchiere, ma le conoscenze e visita le cose, vedere in che condizioni, cioè vai da un contadino, è molto più attrezzato di noi. Noi veramente famo tutto a mano, cerchiamo di evitare il consumo pure di un po' di miscela. Certo. Vicino lo coltivamo. Allora, magari per chi ci ascolta, ci sarà un'occasione la prossima settimana per venire a conoscere l'associazione Terra Madre. Sì, vogliamo raccontare che cos'è? Cosa ci sarà? Il programma, il giovedì c'è l'accoglienza a chi fa il mercatino dei prodotti. I contadini che vengono a proporre i loro prodotti di tutti i tipi, formaggi, miele, ortaggi, insomma, sempre che riguardano il grande rispetto dell'ambiente, non solo il rispetto, perché parlare di rispetto è poco, ci vuole un grande rispetto dell'ambiente, quindi con certe attenzioni accogliamo molto bene. L'iniziativa dell'allestimento del campeggio, e poi c'è una protezione di filmati che veramente manco so, cioè chi deve diamo libera scelta, quindi chi viene è una sorpresa pure per noi. Okay. Quindi saranno bellissimi filmati, insomma. Quindi una la partecipazione che comunque ai compagni, insomma, un po' appartengono, quindi sono belli da seguire, sicuro. Quindi per me è anche una sorpresa, ma solo che sono dei compagni di sezze che anarchici che vengono a trasmettersi i filmati. Poi il venerdì ci sono 2-3 gruppi che ci saranno del genere, sì, ci sa, sì, c'è, sì, un, sì, gruppo di stasera più altri due gruppi sempre di musica punk, il venerdì. Poi c'è il pranzo, la cena, la visita alle terre che lavoriamo, l'incontro col pubblico se si rende disponibile, l'incontro di discussione per allargare più le nostre visioni, perché nessuno ci segue. Bisogna dirlo, insomma, certo. E quindi questi incontri pomeridiani e cose varie, il sabato cena sempre con i nostri prodotti dell'orto e dei contadini che ci portano, perché non è che con l'orto se riusciamo a fornire, come quest'estate con sto caldo ci ha rovinato un sacco di cose, però insomma riusciamo a fornire, quindi i concerti continui. La sera, il sabato sera ci saranno concerti di cantautori, e la domenica è bellissima perché ci sono tre gruppi di musica popolare, abbastanza, un gruppo è di Montelanio, che si svolge a Montelanico, la festa, no? Ricordiamolo, insomma, Montelanico, dove... Parco Fontana Nuova. Per raggiungere Montelanico da Roma? Da Roma a 1 fino a Collefero, a Roma-Napoli, uscita Collefero, Collefero-Montelanico, direzione Carpineto Romano. Un'oretta da Roma? Sì. Sì, insomma, da Roma dipende da dove si parte. Lasciate, sì, la città di Roma, sì, che sarà sicuramente avvolta in temperature infernali. Perché venite a 20 gradi da sera, ecco, che sarà una meraviglia. Quindi state bene, state fresche, un'ora da Roma. Partecipate, non assistete, andate a partecipare, a sostenere. Perché è partecipazione, insomma. Insomma, andate a partecipare direttamente. Il pane, le focacce che hai mangiato, il pane. Sì, sì, sì, no, garantisco personalmente. Siamo alle prime esperienze, insomma. Notevole, cioè, una focaccina. È stato un buon risultato stasera, perché focaccia e pane è piaciuto. Sì, sì, sì, ma semplicissimo, focaccia con la cicoria. Con la cicoria. Spettacolo. Che raccogliamo durante i periodi che... Certo, non c'è niente da fare. Certo, vai a cogliere la cicoria. Certo, benissimo. E queste sono le risorse che c'è stato, che poi, sì, se, sì, ci, sì, pensi, cicoria raccolta in mattinata, in 5-6 persone, la proponi. Ma non credi che è una cosa così comune, mangiare la cicoria fresca? Certo. Un'iniziativa, no, questa è stata raccolta un po' di tempo fa, non so tempi di cicoria, però ecco, sono cose fatte così, insomma, cioè, ci regalano un sacco di cose, facciamo marmellate coi figli, con le more, con un po' di tutto, quello che riusciamo, giustamente uno il tempo che c'ha lo dedica, è facile cambiare, certo, cose dedicando il tempo, invece di rompersi di coglioni, di entrare in bar a parlare sport o di che o chiusi in casa davanti al computer. Sì, insomma, vabbè, per non essere monotoni pure, certo, a passeggiare senza far niente per negozi. Sì, sì, sì. Invece di magari dedicasse un paio di ore a una vita sociale del genere, che sia costruttiva, su questo fatto di uno stile di vita, di dire, ma io perché anche mangiando, il consumo è una rivoluzione, consumare quello che... Come no? Perché mandi a fare in culo tutto quello che ci stanno a proponere. C'è chi diceva la rivoluzione comincia dalla terra. Dalla terra. Qui ci propongono piante ibride, semi ibride, cazzi vari, piano piano ci tirano che tocca comprare i semi da chi? Certo, che sta illegale seminare. È illegale seminare con dei semi, insomma, c'è stato un inizio, che quando c'è un inizio, certo, girano che te rigirano, troveranno una buona fine. Quindi noi bisogna essere resistenti a queste cose. È una forma di lotta che adesso bisogna lottare, si deve allargare. Perché proteggersi l'ambiente e mangiasse qui se muore, è vitale. Se muore, purtroppo non è che dici ma compro cose, vabbè, no, se muore dall'alimentazione sbagliata è quello che ci propongono. Quindi morì, oltre a morire è brutto, prima di morire a tutti noi costa tanto mantenere un malato di tumore, certo. Quindi c'è tutto un allaccio qui, se mettiamo ci passiamo la notte a parlare di tutto, dove qui potevamo collegare, allacciarsi dappertutto, certo, tutto, per loro c'è un risultato, per noi c'è l'inculatura, il regresso, perché ci vanno le prime su tutto, addirittura fra un po' cultivo, insomma, sì, è sì. difficile trovare piante, i contadini che sono i vecchi contadini quando mettono delle piante che gli portano un sacco di roba, tutte ammazza che piante, però certo dice ammazza, ho fatto belle piante ma non ho fatto il seme di quelle piante, oh. che faccio? Ricompi le piante, certo, e chi te le dà queste piante? A la prezzi, multinazionale a prezzi, lo sai, 60 centesimi oppure prodotti tuoi. Io mi sono fatto un orto quest'anno, c'erano tutti i semi, le piante mie c'avevano il nome, la grandine mi ha distrutto tutto, quindi io avevo fatto tutti i semi miei selezionati, piante scelte e cazzi vari, la grandine mi ha sterminato, e ogni pianta c'aveva il suo nome, perché le dico l'amore insomma che c'è. No, l'ho seminato, erano semi che io conoscevo, poi mi sono dovuto ripiegare, ho rimediato piante da persone che conosco, non è che mi sono ripiegato alle rivendite dei vivai, qualcosa sì, perché poi insomma dopo aver mangiato un anno e zappato un anno poi produce, certo. Ma ho rimediato a piante di tutti i tipi, dai contadini conoscenti, ho dovuto rifare tutto. Allora vogliamo chiudere ripetendo, rinnovando l'invito insomma a partecipare tutte e tutti, tutte e tutti a Montelanico. Montelanico il venerdì, quindi domani, per chi ascolterà questa corrispondenza a Montelanico, da che ora? Giovedì sera, vabbè, giovedì sera cioè, ospitiamo il campeggio libero, quindi potete venire insomma con la tenda, state freschi, dormite tranquilli, state freschi, ci avete acqua, ci avete tutto da mangiare, musica e tante belle cose, insomma ospitalità è la massima, solidarietà tantissima. Benissimo. Allora magari il programma preciso lo ripeteremo, sì, perché... dopo aver ascoltato questo contributo magicamente. E no, grazie per queste chiacchiere, veramente. Sì, sì, io pure ti ringrazio per aver diffuso la nostra, certo, situazione, che poi se ci sarà possibilità approfondiremo. Va bene, noi ci siamo. Ci siamo sempre, resistiamo. Dovremo resistere. È sempre. Perfetto. È sempre con noi la resistenza. Capito? Dai, ti ringrazio. Ciao, ciao. Buonanotte a tutti i compagni. Continuate, non dormite. Insomma, questa è la chiacchierata che abbiamo avuto il piacere di registrare durante il Maciara Fest. Quindi se vi volete fare una bella passeggiata e andare a conoscere chi lavora la terra, come si lavora la terra, quale migliore esempio del do it yourself? E vi andiamo adesso a presentare un po' di robetta che abbiamo registrato durante il Maciara Fest. Loro vengono da Roma, punk rock. Sono i Ferox e questa è Vado Fuori. Attenti al terrorismo! E questi erano i Mega, un altro gruppo sempre da Roma, che erano presenti al Macera Fest. Vi terremo d'occhio. E abbiamo registrato un'altra corrispondenza tra i banchetti del Macera Fest. Siamo venuti alla conoscenza di questa label che produce solamente su cassetta. E l'andiamo a conoscere con voi. Questa è Suoni Oscuri. Sabato 18 luglio Do It Yourself Invasion se n'è andata in missione qui tra i monti di Carpineto Romano. Vabbè, cominciamo a descrivere un po' la situazione. Il Macera Fest capitolo 2 in mezzo ai monti, perché siamo qui a 650 metri nel mezzo del nulla, completa oscurità. E c'è questo, hanno organizzato insomma un bell'angolo nelle foreste, e c'è già una bella situazione, come ci piace fare, insomma andiamo in giro per banchetti, proprio perché internet e i social non sono tutto, però le novità, le persone vere insomma si incontrano direttamente. E chi abbiamo incontrato? Ce l'abbiamo qui, siamo in completa oscurità, un'intervista molto black metal. Ci siamo distaccati un po' dall'area del concerto e niente, tra le lucciole, 650 metri tra i monti, chi abbiamo incontrato? Buonasera, sono Alessandro e suono con gli Hostiliter questa sera, gruppo crust della Tuscia, da Viterbo veniamo, e insieme a me ho portato anche la mia label che è Suoni Oscuri, nata con l'intento di riportare il culto della cassetta. Quindi abbiamo iniziato a produrre band più o meno old school in formato cassetta. Ti volevo chiedere, come mai la scelta del formato della cassetta? Cioè c'è un revival in corso, come mai la scelta di questo oggetto qua? Beh, perché cioè la cassetta, io vengo comunque da una cultura anni 80, io con le cassette ci sono cresciuto, e comunque vedo che insomma un po' di nostalgia sta tornando sia diciamo in ambito black metal, ma anche in ambiti che spaziano tra diciamo il grind, anche hardcore. Quindi diciamo la scelta di imprimere sul nastro quello che è, diciamo, non è solo uno stile musicale o una filosofia, è proprio un culto, quindi la cassetta come oggetto di culto per promuovere la filosofia dell'underground, questo è l'intento, diciamo. Proprio su questa cosa qui, no? Sul fatto di voler produrre comunque un oggetto che prendi in mano, ti può guardare, più personale magari rispetto a quello che è stato il CD. Sì, sicuramente è più personale, anche cioè a livello di, come dicevi tu, fisicamente avere un oggetto che ha un formato diverso dal solito CD che ormai cioè, ha invaso dagli anni 90 fino adesso, che diciamo che anche il CD è andato a svanire proprio per il discorso del progresso, quindi i formati elettronici, ormai il supporto fisico non è rimasto più niente, il supporto fisico, andiamo a ritirare fuori dalla tomba proprio la cassetta, che è stata quella diciamo che è stata più di punta nell'epoca in cui diciamo sono usciti fuori i gruppi migliori della storia del metal, del diciamo estremo e non. Quindi ecco, una scelta anche per far rivivere quell'atmosfera che secondo me il nastro riesce a... Ma cioè, pure... oltre il vinile anche il nastro riassume il suo fascino, ecco. No, pure come attitudine a proporre insomma produzione su cassetta, già ti dà l'idea che è una cosa totalmente anticommerciale, quasi a non cercare un tra virgolette mercato, no? Assolutamente. Perché poi sì. La piastra insomma è rimasta a pochi di chi ce l'aveva un tempo, ancora peggio forse per le nuove leve, insomma. Beh, sicuramente, però ecco, il discorso di andare controcorrente, contro il mercato, è proprio secondo me uno dei principi fondamentali metal, ma dell'underground in generale, senza andare a cercare, diciamo, canali mainstream o chissà quale sogno di l'underground è underground e non si discute, diciamo, questo è il punto fondamentale secondo la mia opinione, poi ognuno la pensa come vuole. No, guarda, lo dico, vabbè, qui all'ascolto sì, sicuramente ci sarà il Mastello da Torino che storcerà un po' il naso, però no, è un affezionato del punk hardcore, a me fa solo che piacere vedere che insomma c'è chi in giro propone l'autoproduzione, comunque un discorso totalmente anticommerciale anche in generi fuori dal punk hardcore, che insomma si sente un po' più spesso rispetto al metal o al black metal. Sì, assolutamente, ma l'idea diciamo nostra di Suoni Oscuri è affacciarci anche a quelle realtà che non sono prettamente metal o black metal, ma anche a realtà che diciamo che escono fuori da questi canoni, che però rientrano sempre in una filosofia di, tra virgolette, passate in virgolette, di oscurità, quindi nel militare nell'ombra, cioè a prescindere dallo stile che uno a cui uno è affezionato, quindi cioè nel posto più lontano da quello che può essere il mainstream. Esatto, ma proprio più lontano possibile. Questa cosa voglio proprio sottolinearla, perché l'underground è underground, basta, non c'è compromesso. Benissimo. Assolutamente. Senti, cosa ci avete in lista all'attivo? Guarda, all'attivo abbiamo iniziato da poco la nostra attività, cioè anche se io vengo comunque da anni di, diciamo, conoscenze, esperienze, situazioni musicali, eccetera, le prime nostre tre produzioni sono state diciamo volte a due gruppi della zona diciamo laziale, in particolare i Tundra, che vengono da Ostia, che sono attivi dal 2002 con alle spalle svariati dischi full length, split con artisti anche internazionali, parlo sempre di zona underground, e comunque un gruppo molto affermato anche diciamo nell'underground internazionale. Poi abbiamo gli Asture Evocation, che sono diciamo delle nostre parti, sono amici, però loro dal no, ricordiamolo, da dove vieni forse? Da provincia di Viterbo, quindi sì, stiamo parlando della zona della Tuscia. Area Tuscia. E appunto ricordavo questi Asture Evocation nel 96 fecero uscire questa demo tape black metal, diciamo, nudo e crudo, che poi loro insomma si sono evoluti dando vita ad altri progetti, come, non so se ne avete sentito parlare, i Kailash, che suonano insomma un ambient molto articolato, tecnico, progressive, poi altri progetti grind estremo stile Cryptopsy, li vediamo protagonisti negli Astur, quindi diventati progetto grind ultra tecnico estremo, che adesso sono diventati Hornwood Fell, sono ritornati al black metal prodotti dall'Avantgarde Music, insomma nota etichetta black metal italiana. E poi un altro gruppo assolutamente underground, un mio amico un po' più distante da me, sono piemontesi, che sono i Grimwald. I Grimwald, che conosciuti per puro gusto, cioè ricercando, insomma, ricerca un po' una mia abitudine, ricerca dell'underground, e ho trovato questo gruppo e mi è piaciuto molto, perché diciamo è riuscito a rispecchiare quella che è proprio la vera atmosfera del black metal, quindi la solitudine, il distacco dall'umanità, il ritorno alla natura, diciamo tutta una serie di emozioni, di atmosfere rinchiuse nella loro musica. Quindi non lo so, casualmente li ho scelti per portarli appunto sul nastro. Guardandomi intorno sarebbe magari una location, come si dice, perfetta. Una colonna sonora perfetta sarebbe il black metal. Perché il black metal sì, ci potrebbe stare molto sì, bene qui tra i monti. E anche degli Hostility ho visto una cassetta. Sì, e questa è l'ultima produzione che diciamo è uscita per Suoni Oscuri, che è il promo degli Hostility, che fu registrato nel 2011 ma mai prodotto, quindi essendomi io introdotto nella band negli ultimi mesi ho detto: ragazzi, facciamo produciamo questo, questo promo, e la scelta è stata quella di metterlo sul nastro, ovviamente. E quindi ecco, c'è questa Age of the Gay, che diciamo, è un promo del 2011, però uscito attualmente in formato tape, che comprende questi tre pezzi dove io non suonavo ancora. E quindi prossimamente sta per uscire il nuovo disco, che abbiamo finito la scorsa settimana di registrare in formato CD, però aspettando un po' anche quello andrà a finire sul nastro sicuramente. Benissimo. No, una domanda insomma che mi era venuta in mente mentre insomma ci descrivevi i risultati delle tue ricerche musicali ed umane, poi andando a conoscere questi gruppi di un genere estremo totalmente nascosto ai più insomma, no? Sì, assolutamente. Questa è l'attitudine. Poi si riescono ad organizzare concerti Ma intendi come etichetta o diciamo in generale come... No, la domanda era sull'attività live. Sull'attività live, diciamo, in Italia è un po' complicato, perché approfitto dell'intervista per denunciare alcune elite, non so se poi vorrai tagliarlo, ma cioè, no. Mi sento in dovere insomma di precisare che ci sono alcune elite che purtroppo sono realtà che un po' vanno a sminuire quello che è la scena, quello che è, come dici tu, l'attitudine, nel senso che tante band, la filosofia di tante band è quello dell'apparire, cioè quindi fare più concerti possibili live, e si è generato tutto un discorso di agency e ovviamente sono a pagamento, e quindi molta gente si presta a pagare un qualcosa che secondo me non ha prezzo, cioè il suonare è bello suonare davanti a una persona se tu senti veramente l'attitudine. Guarda, io poi ne abbiamo parlato prima a microfoni spenti di questo aspetto qui, come proprio per i generi ultra underground, che cioè non stiamo parlando insomma di gruppi o di generi musicali che facilmente neanche si trovano in squat a Roma, insomma sono generi un po' misantropici, no? Esatto. Per volontà, e spesso per la mancanza, per la difficoltà di suonare nei posti dove insomma gira il metal, ricordavo appunto gruppi come i primi Doom Razor o Misanthropus che andavano a toccare il genere Doom per esigenza quasi, no? Sì. Si andava a suonare negli squat. Sì. E poi è anche il potere dell'autoproduzione, no? Certo. L'uscire dai retaggi insomma del mainstream e suonare in posti anche come questo, cioè il canale poi dell'autoproduzione ti permette di suonare ovunque. Sì, è comunque fondamentalmente attitudine, è quello che uno sente, quello che uno vuole. Perché se uno vuole andare a cercare canali per arrivare a un'ipotetica quanto utopica affermazione nella scena, chiamiamola così, cioè, se ti lamenti, fallo. Esatto. Comunque cioè, il discorso è ognuno ha i suoi obiettivi. Secondo me, la mia opinione, l'attitudine, cioè in quello che, perché uno sceglie la musica estrema proprio per andare contro corrente, per andare contro tutti. Dal momento in cui si mette in certi canali, in certe cose, cioè, lì l'attitudine secondo me va proprio perduta. A morire. con sé tutta l'atmosfera e l'emozione di quello che è un genere che diciamo dovrebbe essere la punta dell'anticonformismo. Questa è la mia opinione, poi rispetto anche quella degli altri. Benissimo. E vabbè, non siamo soli, perché sembrava che stavamo parlando io e te, però c'era un altro personaggio qui l'intruso. Vabbè, chi ci abbiamo? Federico degli Hostiliter, suonerete stasera qua al Macere Fest. Come ci siete capitati? Boh, puro caso, perché c'è la ragazza che organizzava, c'è amica stretta di Neid, Pamela dei Mefitica, amica stretta di Neid, comunque ci ha contattato e ci ha chiesto, e noi siamo sempre disponibili a suonare in giro, ovunque tra virgolette. Insomma, vabbè, è un posto particolare, insomma, una bella atmosfera. E suoneranno un sacco di gruppi stasera e finirà molto tardi e ci abbiamo il piacere, insomma, di come sempre, come sempre. Normale, e quindi avremo il piacere, questa cosa sì, fare tardi. Vabbè, insomma, e siamo contornati dalle lucciole, noi vi salutiamo. Ah, vabbè, Ostilite che abbiamo passato nella scorsa puntata da la compilation costruito nella Tuscia, Ostiliter che andranno a suonare in Est Europa, no? Sì. Tour che ci sarà tra poco. Un tour fra una mesata. Benissimo. Nemmeno. Vabbè, cercano delle date, tra l'altro, no? Facciamo pure questo appello, quindi in diretta, o meglio, in differita. E state cercando delle date. In Est Europa ci abbiamo dei giorni di buchi, tra cui il 14 agosto, il 17 e il 19. Dove sarete in questi giorni? 14 cerchiamo date o Austria e Slovenia, 17 Slovacchia o Polonia, 19 Polonia o Repubblica Ceca. Quindi se siete all'ascolto e vi va di, insomma, di dare una mano e supportare gli Ostiliter, mettetevi in contatto con noi. Vi ricordo l'email, insomma, fantasma@ondarossa.info, e insomma damogli una mano e supportiamo l'underground. Io ringrazio ancora gli Ostiliter, dopo ce li andiamo a vedere. Tra l'altro, cioè, il potere dell'autoproduzione, del conoscersi direttamente, di venire in questi posti, è che magari nascono le cose anche in maniera più spontanea e veloce, rispetto alle varie masturbazioni digitali di internet, cose così. Perché stasera proveremo a registrare qualcosa, sperando che venga di qualità decente, magari potrà uscire su cassetta. Magari, sarebbe veramente una cosa molto di attitudine, diciamo. Benissimo, bene, noi ci proviamo e a più tardi, insomma, con altre corrispondenze dal Macera Fest. Bella, dai! Grande Dario. E questi sono gli Ostiliter che abbiamo registrato durante il Macera Fest. Un attimo che traffichiamo. E questa è in una cover dei Contropotere, Demoni e Dei. No, fammi un attimo cover. No, non gli ha fatto. È invertito. Questo è un obiettivo di Canezza, non gli ha fatto. Pezzo Contropotere. 22 in punto. Andiamo a rubare giusto un paio di minutini agli apostati, che hanno cominciato ad invadere gli studi di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Tra poco apostasia. Ricordiamo l'appuntamento di questo venerdì, quindi domani 24 luglio all'Acrobax, dalle 21.30 con solo internazionale Trash Ribelle, Rotas, Mirchione Mover, Buttiamolo in Caciara, nonché i DJ di Radio Onda Rossa. Un'iniziativa a sostegno di questo progetto libero del 1977, quindi un'ottima occasione per sostenere questa radio questo venerdì dalle 21.30. Un trash party all'aperto con piscina, quindi portatevi il costumino. Sotto sentiamo gli Alieni, sempre registrati al Macera Fest. Andiamo così a chiudere questa puntata di Do It Yourself Invasion. Saluto tutte e tutti, un appuntamento a risentirci a giovedì prossimo. Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion a Radio Onda Rossa, dai! E il nostro saluto più caro lo diamo a... Questa è Miasmi. A tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. E vi lasciamo con un pezzo dei vedi no, perché questa è colpa degli apostasi. Perché dovrebbero prevedere che, insomma, con questo caldo la lingua si inceppa. Cioè, la dovreste... Vabbè, insomma... Cioè, cominciate a prendere l'abitudine di bussare con i piedi. Dai, Wolf Brigade, Ride the Steel. Thank you. Texas, California, a manly way to do it. Radio, and it's in form. Those are the thoughts making you conform. Programming music, you should listen in. Everyone's here.